24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui alle 7:20 minuti in punto, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Ci trovate anche sulla pagina Facebook e potete scriverci 24 mattino e radio24.it. Di che parliamo nel nostro sondaggio? Oggi parliamo della indagine fatta da questa associazione Open Police, dalla quale si evince che un terzo dei parlamentari è considerato produttivo. E gli altri? Boh, chi lo sa. Vi stupisce questa indagine? Solo un terzo dei parlamentari considerato produttivo. Siete stupiti da questo? Votate su Radio24.it, ne parleremo alle 8:30 e adesso i giornali in edicola. In primo piano. In questo mercoledì 2 marzo le aperture sono dedicate all'inflazione che ricomincia a crescere, così titola Il Sole 24 Ore e anche La Stampa, allarme inflazione sulla ripresa. C'è ancora la vicenda libica, ora la si sposta la questione sui profughi, missione italiana per i profughi, così apre il Corriere della Sera, mentre anche la vicenda politica interna e giudiziaria di Berlusconi negli altri giornali. Per Repubblica, il PDL, fermiamo i PM di Ruby. Per Il Messaggero, maggioranza contro i PM. Per Il Giornale, Ruby e Silvio nelle mani di Fini. Mentre Il Fatto Quotidiano paragona la vicenda del ministro della difesa tedesco che si è dimesso per una tesi copiata e Berlusconi. Uno ha sbagliato e si dimette, l'altro è imputato e minaccia. Queste alcune aperture dei giornali. Io voglio citare le due paginate sulla Stampa e Il Fatto Quotidiano che trovate e che sono dedicate al tema del nostro sondaggio. La questione della produttività dei parlamentari nostrani. Fare leggi? No! L'onorevole deve cambiare casacca. Così la vede Mattia Feltri a pagina 13 della Stampa. Camere improduttive. Alla Camera lavorano 50-60 persone, ha detto lunedì Silvio Berlusconi, ripromettendosi per la centesima volta di ridurre drasticamente il numero dei parlamentari. In quel momento in aula c'erano 24 persone, 17 funzionari, il presidente di turno, 4 deputati del PD, 1 del PDL, un rappresentante del governo. E c'è da dire che quando si stendono articoli come questo, scrive Feltri, le premesse sono necessarie. Si premette che lunedì alla Camera circolavano altri 7 o 8 deputati, come ad esempio il leghista Raffaele Volpi, che proprio ieri ha inviato un messaggio al presidente Gianfranco Fini, vacia pairat. Si premette che ieri erano molto più numerosi e a proposito di produttività che le leggi varate non sono un indice definitivo, che i criteri adottati dall'associazione Open Police sono stati criticati da Massimo D'Alema, giunto 621esimo su 630 deputati. E invece sono stati elogiati lunedì dalle 4 parlamentari del PD, risultate ai primi 4 posti per produttività. Insomma, queste le premesse, sta di fatto che, scrive Mattia Feltri, questa doveva essere la legislatura che doveva essere quella del riscatto dei parlamentari dalla fama di nulla facenti. Fini aveva ipotizzato un mese composto da 3 settimane lavorative complete, comprensive di lunedì e venerdì, di sgobboneria matta e disperatissima, e una di libertà, perché i parlamentari curassero il collegio, sebbene i collegi in pratica non esistano più. E invece che cosa succede? Per Mattia Feltri ci si dedica soprattutto al cambio di casacca. Sono già 113, 85 deputati e 28 senatori i parlamentari che dall'inizio della legislatura hanno cambiato gruppo. Nella legislatura 2001-2006 furono 103 in 5 anni, ora sono già 113. Ma il numero potrebbe anche salire, perché ci sono parlamentari come Silvano Moffa, Maria Grazia Siliquini, Katia Polidori, che hanno cominciato nel PDL, hanno proseguito la legislatura in Futuro e Libertà, sono quindi transitati nel misto per approdare provvisoriamente nel gruppo dei responsabili. Dunque, se si contano anche questi cambi di casacca, si sale a 134, sempre che nella serata di ieri non ce ne siano stati di ulteriori. Questa è la chiosa anche un po' ironica di Mattia Feltri. Così Il Fatto Quotidiano a pagina 5. Il Fatto Quotidiano, per la verità, da giorni e quotidianamente pubblica il numero di ore di lavoro quotidiane alla Camera e al Senato. Questo fa arrabbiare anche molti parlamentari che dicono ci sono anche le commissioni dove si lavora e non sono conteggiate in queste ore, perché queste ore conteggiano solo l'ora di lavoro dell'Aula, insomma della Camera e del Senato. Comunque Caterina Perniconi a pagina 5, poco onorevole, i deputati in Aula 3 ore al giorno, ci fa sapere che in media l'Aula è stata riunita 123 ore e 40 minuti dal 1 gennaio al 28 febbraio, che significa che in 2 mesi le ore lavorative al giorno sono 3. Al Senato le cose vanno peggio, le ore lavorate di media al giorno 1,7. Questo all'Aula del Senato. Il nostro Peter Bescapè ha una faccia, diciamolo pure, schifata. Vabbè, ma questo è un po' di qualunquismo. Ci sono anche le commissioni che lavorano. In ogni caso, 3 ore al giorno di media di lavoro dell'aula della Camera, 1,7 ore al Senato, neanche 2 ore. E la seconda segnalazione che vi volevo citare è questa: la Lega ottiene la festa Lombard in cambio dei fondi dell'Unità d'Italia. La trovate su tutti i giornali, la Padania la mette in prima pagina. Lombardia, la bandiera dell'identità. Nel Consiglio regionale della Lombardia è stata votata questa legge per cui la Lega ha concesso tutto il suo voto per i fondi per la festa dell'unità. In cambio è stato proclamato il 28 maggio, sta di fatto che il 28 è il giorno della battaglia di Legnano, la terra natia del Carroccio. E allora o il 28 o il 29, dice Formigoni, c'è la data della festa che celebrerà la Lombardia. E tra l'altro il giornale fa sapere che dopo aver combattuto perché non venissero chiusi gli uffici nella data del 17 marzo dell'Unità d'Italia, che per quest'anno è festa nazionale dei 150 anni, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale dice: e invece per celebrare la nostra regione, lo dico subito, non si dovrà lavorare. Ma come? Cioè, dopo che si è detto che il 17 marzo bisogna lavorare, per celebrare la Lombardia invece non si dovrà lavorare. Al che Formigoni ha detto: la festa va bene, ma sull'astensione dal lavoro discutiamone. La pubblicità. In primo piano. La politica sul punto di vista della giustizia e i problemi giudiziari del presidente Berlusconi fa registrare certamente un passo in avanti che oggi viene attribuito ai giornali, importante. Con che cosa? Beh, i capigruppo di maggioranza ieri hanno chiesto formalmente alla Camera di accertare la sussistenza per sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale contro i giudici. PDL, Lega, Berlusconi, giudici scorretti, sia il conflitto di attribuzione. E c'è un aspetto politico molto molto importante e interessante, perché di fatto saranno chi a decidere? Due organismi parlamentari nei quali la maggioranza è in minoranza, e vale a dire sono in numero maggiore i deputati dell'opposizione, e questi due organismi sono entrambi presieduti da Gianfranco Fini, sono l'ufficio di presidenza e sono la giunta per il regolamento. Dunque questi due organismi dovranno decidere se sollevare il conflitto di attribuzioni presso la Corte Costituzionale. È ovviamente un passo importante per Fini, tanto che a pagina 2 del Corriere della Sera: in gioco il mio ruolo, il presidente della Camera sceglie la prudenza. Secondo Repubblica invece non filtra nessuna dichiarazione dall'ufficio del presidente Fini. È certo una mossa politica anche strategicamente interessante quella di Palazzo Chigi, di Berlusconi, tanto che Libero e il Giornale la mettono così. Il Giornale, per esempio: Berlusconi e Rubi nelle grinfie di Fini, la maggioranza vuole che la Camera chieda di trasferire il processo in corso a Milano al Tribunale dei Ministri, ma il leader di Future Libertà potrebbe fare ostruzionismo impedendo all'Assemblea di Montecitorio di votare la decisione. Sta di fatto, insomma, che ora la palla è nelle mani di questi due organismi vale a dire la giunta per il regolamento e l'ufficio di presidenza presieduti entrambi da Fini e nei quali, ripeto, i numeri darebbero ragione all'opposizione, perché in entrambi gli organismi l'opposizione è in numero maggiore rispetto, sono in 10 dell'opposizione mentre sono 8 o 9 se si considerano i responsabili, non si capisce ancora da che parte votino, sono per la maggioranza. Sulla vicenda Rubi ci sono ancora tante novità oggi dai giornali, vediamo di riassumerne tre. La prima sul Corriere della Sera, pagina 5, ci sono ancora dei nuove intercettazioni, 9 nuove intercettazioni che vengono proposte da Luigi Ferrarella, Giuseppe Guastella, sono intercettazioni di Rubi in un caso in cerca di casa con un agente immobiliare. Ricorda, trovamela, 350.000 euro, tanto me la paga zio. Zio, chi è zio? Non si sa, ovviamente. E poi in un'altra intercettazione di Rubi parla con un'amica, sembra che sia successo chissà che cosa, ma ci sono 3.000 uomini di 50 anni che si fanno le minorenni e non dicono mai niente, invece solo perché lui è Silvio devono aggredirlo in questa maniera. Poi in un'altra intercettazione tira in ballo Corona e Bettarini, che smentiscono di averla mai conosciuta. Poi dice in un'intercettazione 187.000 euro sono i soldi dati dal Premier, ma curiosamente in un'altra intercettazione dice di essere tornata con la stessa cifra, 187.000 euro dal Dubai. In un'altra intercettazione dice non accetterò i 700.000 euro offerti a suo dire da Alfonso Signorini, il direttore di Chi, che vuole un'esclusiva per due interviste perché io sono con il capo e lui mi dà 4 milioni e mezzo per se starmene zitta. Il capo sarebbe, credo, Berlusconi. Insomma, intercettazioni che dicono una cosa, poi un'altra, ma comunque proposte dal Corriere della Sera. Mentre Libero propone che cosa? Anche questa è un'esclusiva, pagina 8 e 9, i verbali delle interrogatori di Chi? Il ministro Galan, il ministro Frattini, il sottosegretario Paolo Bonaiuti, perché erano tutti presenti a quella cena, in cui era presente anche Mubarak, nella quale Berlusconi avrebbe accennato di Rubi all'allora presidente egiziano. Ecco gli interrogatori, la verità di Frattini e Bonaiuti su Rubi. C'erano anche Galan, c'era anche il consigliere Valentino Valentini, tutti interrogati, questi verbali, la versione di tutti, per esempio sentite Frattini. A un certo punto sicuramente Berlusconi fece questo nome a Rubi, al presidente Mubarak, parlandogli di una ragazza che si chiamava così. La reazione di Mubarak fu, dall'espressione che percepì, che non avesse realizzato a chi si riferisse. Da altri interventi emerse che una certa Rubi fosse una cantante egiziana, una conversazione un po' confusa, al che Berlusconi disse allora ci informeremo meglio. Questo Franco Frattini e praticamente anche gli altri, anche il ministro Galan dice, parlò di questa Rubi. A mio avviso il presidente Mubarak non focalizzò subito di chi poteva trattarsi, insomma un po' di confusione di fronte a questo nome pronunciato da Berlusconi associato a Mubarak. Il terzo aspetto legato all'inchiesta è quello che viene affrontato da tutti i giornali, dal Fatto viene messo a pagina 3 ed è questo. Il padre della soubrette Barbara Guerra, una di quelle che erano presenti alle serate di Arcore, in un'intercettazione parla con la figlia e dice se il premier vuole io spio, metto una cimice nella sede di Milano di Futuro e Libertà. Eccolo qua, il padre che parla con Barbara Guerra. Gli volevo proporre se mettere una microspia. Io ho le chiavi dell'ufficio della sede di Futuro e Libertà. Ieri è venuto anche il senatore Valditara. E Barbara Guerra, vale a dire la figlia, dice beh glielo dico subito, cacchiarola a Berlusconi. Lui non è qui, se no cazzo andavamo subito a casa sua. E poi ne parla con Berlusconi. Oh, pa, ci ho appena parlato. Mi ha detto che forse è meglio non farlo, però vuole sapere dov'è la sede. Così sul Fatto Quotidiano la Papi Girl metto le cimici ai finiani e dunque si profila un'altra polemica su questo, mentre Nicole Minetti, che è sempre al centro delle polemiche, devo dire, adesso spezzo una lancia per Nicole Minetti, non se ne può più effettivamente, ogni volta che entra in Consiglio regionale della Lombardia c'è un assedio, tanto che il Consiglio regionale ha dovuto fare un'ordinanza per limitare gli spazi nei quali si possono muovere i fotografi, ma lei ha risolto, ha detto... Sapete che c'è? Risolvo tutto, il Consiglio regionale è convocato anche ieri, ma lei è in vacanza a Dubai. Nicole Minetti al Pirellone preferisce Dubai, posto affollato Dubai. Pagina 13 del Quotidiano Nazionale. Che dire, la politica ora si interroga anche su questa vicenda, su questa proposta del senatore Butti di alternare i conduttori del talk show della Rai. Avete sentito, che ne so, un giovedì Anno Zero con Santoro, il giovedì dopo Ferrara, il martedì Ballarò una volta lo conduce Floris, la settimana dopo Paragone. Si alternino i conduttori dei talk show Rai. Proposta del PDL: garantire equilibrio bipartisan. Questo è il senatore Butti. Le reazioni raccolte dal Corriere della Sera: Santoro lo definisce un mincul pop. Sgarbi è perplesso. Meglio allargare più che altro, più che all'alternanza, punterei ad aggiungere altre voci. Lucia Annunziata: conosco Butti, è sempre attivissimo, ma nessuna sua proposta è mai andata a risultato. Parla anche Alessio Vinci, il conduttore di Matrix su Canale 5, che dice: io non voglio commentare le vicende altrui, ma la proposta mi sembra poco attuabile. Anche Paragone: la validità di una trasmissione si misura con gli ascolti, non basta cambiare il conduttore. Insomma, molta perplessità. Voglio leggere a questo proposito, si cimenta su questo Gramellini col suo buongiorno, Massimo Gramellini, in prima pagina sulla Stampa. Pari e dispari. Non capisco il crepitio di sghignazzi col quale è stata accolta la serissima proposta della maggioranza di alternare conduttori di Ballarò Anno Zero. Nelle settimane dispari Floris e Santoro, in quelle pari due giornalisti di diverso orientamento culturale, cioè fiancheggiatori del governo. La par condicio non consiste infatti nel raddoppiare gli spazi di tutti, ma nel dimezzare quelli di qualcuno. Personalmente trovo altrettanto inaccettabile che il Milan faccia sempre giocare Ibrahimovic. Nelle partite in casa andrebbe alternato con Sgrigna, per garantire qualche soddisfazione ai tifosi di diverso orientamento culturale. La monogamia, poi, è un retaggio di epoca sovietica. In base al regolamento della Commissione di Vigilanza Matrimoniale, a ciascun coniuge dovrebbe essere consentito alternare il partner con altro di diverso orientamento culturale, protettivo nei giorni feriali e passionale nei weekend. E perché non estendere la turnazione alla Procura di Milano? Nelle settimane dispari indaga Hilda Boccassini, in quelle pari Ghedini con una parrucca rossa. Ma l'apoteosi del servizio pubblico sarebbe una corte costituzionale che emettesse sentenze a targhe alterne, legittimando il processo breve di giovedì Grasso e delegittimandolo il secondo martedì di Quaresima. PS: un lettore malizioso, dal quale naturalmente mi dissocio, propone di estendere il principio all'alternanza culturale al TG1, nelle settimane dispari così com'è, e in quelle pari con le notizie dentro. Il traffico. In primo piano. La questione libica ora è affrontata dai giornali dal punto di vista dell'esodo, e tra l'altro c'è l'annuncio a sorpresa al termine di una riunione tra Berlusconi e i ministri del voler far partire una missione italiana in Libia, in Tunisia. In 48 ore arriverà in Tunisia e fermerà gli sbarchi, così ha annunciato ieri il ministro Maroni, perché è proprio sulla frontiera tra Libia e Tunisia che si concentra il dramma umanitario che si sta profilando e che viene ben raccontato da quello che è il mio giornalista preferito, ognuno ne ha uno, è Domenico Quirico, in questo caso sulla Stampa. Una marea di disperati inonda la Tunisia. Domenico Quirico racconta con la sua penna sempre molto attenta: da lontano sono solo un rumore, un sospiro profondo che tonfa come il suono di una cascata e cresce metro dopo metro. Poi, superate una dopo l'altra le garitte, le sbarre, i muri del confine tunisino, avvicinandosi alla barriera libica, li vedi, diventano un segno scuro, una linea in frenetico bollire che un cancello dallo sbarazzino color azzurro taglia come un rasoio. Su quel serpeggiamento convulso volano, partendo dalla zona tunisina, strani oggetti chiari, a decine, centinaia, come in una battaglia di sagra paesana, con ellissi che vengono inghiottite subito dall'oscuro grumo che striscia dall'altra parte. Ecco, giunti dove la Tunisia finisce, puoi capire. Quel fiume color metallo spumeggiante sono uomini a migliaia. Sono i fuggiaschi egiziani di altri paesi che cercano freneticamente di lasciare il paradiso di Gheddafi, tiranno coriaceo che non si riesce a cacciare. Vogliono solo agguantare la sicurezza della Tunisia, poi tornare a casa. Ecco, inizia così questo reportage di Domenico Quirico da Ras El Jadir, in Tunisia, al confine con la Libia, a dire questa ondata di profughi che ora si stanno spostando in Tunisia. Il tentativo, appunto, l'obiettivo da parte dell'Italia di arrivare lì in 48 ore con una missione umanitaria che si occupi di queste persone, ma lì in loco per cercare di evitare che vengano qui Tra l'altro sbarchi una Lampedusa dove il sindaco, che sarà nostro ospite alle 8:20 per l'intervista, il sindaco si è ritrovato indagato per istigazione all'odio razziale e tutti i giornali ne parlano perché ha vietato l'accattonaggio, gli schiamazzi e anche con una ordinanza per cercare di evitare di far scambiare per latrine a cielo aperto le strade di Lampedusa. È stato indagato, da ieri è indagato per istigazione all'odio razziale dalla procura di Agrigento. Devo dire che tutti i giornali dicono una decisione francamente poco comprensibile, quella della procura di aprire per questa ordinanza, insomma, nella quale tra l'altro non si citano gli immigrati, ma certo è stata fatta per cercare di fronteggiare una situazione difficile a Lampedusa. Per quel che riguarda la Libia, voglio segnalare anche l'intervista di Flavio Tosi, che è il sindaco di Verona. A pagina 13 del giornale parla con Paolo Bracalini di che cosa? Beh, il sindaco di Verona, essendo azionista come Comune di Verona tramite Cari Verona di Unicredit, ha sempre espresso i malumori per la presenza dei libici in Unicredit e ora Tosi dice: l'esperimento è fallito, Unicredit chiuda coi libici. Ve l'avevo detto io, inizia così Flavio Tosi, la verità è che non dico via gli stranieri dalle nostre banche, questo assolutamente no, ma mi limito a osservare che le banche più legate al territorio si sono dimostrate più disponibili a esporsi con le aziende, mentre le banche internazionali meno. Dunque scettico sulla questione di cui parlavamo anche ieri, vale a dire ora il possibile congelamento, le possibili mosse di che fare delle partecipazioni libiche all'interno di aziende italiane, Unicredit, ma anche Impregilo, anche l'ENI e altre. Tra l'altro la questione libica è anche la questione sullo sfondo dei prezzi, l'inflazione, come fa notare il Sole 24 Ore in apertura, ricomincia a crescere con un più 2,4%, spinta da carburanti, spinta dagli alimentari, si tratta del dato peggiore dal novembre del 2008, l'energia scalda poi i prezzi, fa sapere il Sole a pagina 3 con Emanuele Scarci, l'inflazione al 2,4% è trainata dai carburanti, come detto è il top da novembre del 2008 con un più 11,8% su base annua dei prezzi di benzina, più 18% per il gasolio, per i mezzi di trasporto, più 17,2% per il riscaldamento, il gasolio del riscaldamento, e quindi si va tutto a ricadere anche sui trasporti pubblici. I beni alimentari storicamente stabili sono schizzati del 2% e per molti è proprio l'effetto Libia. Che altro c'è ancora sui giornali? C'è ancora molto di cronaca. La vicenda di Yara, voglio citare i due articoli più interessanti che potrebbero portare a una svolta. Yara, il DNA di un conoscente sotto le unghie, così titola Repubblica. Gli investigatori dicono si fidava di chi la rapì. Mentre sul giornale è dato addirittura 3 giorni per dare un nome all'assassino. Io dico, per carità, cioè, sono state dette tante cose e tante sono state fatte tante illusioni, ora vedremo, insomma, però per il giornale tra 3 giorni ci sarà il tempo per dare un nome all'assassino, perché c'è la traccia del DNA di chi l'ha ammazzata. Sul Messaggero invece c'è addirittura questo sfogo su Facebook di tale Marta Casile, che dice il Messaggero: se gli investigatori non l'hanno ancora rintracciata, forse è il caso che lo facciano. E che su Facebook dice: sappiamo tutti chi è, lo conosciamo tutti, ora io ho paura. Siamo di nuovo a indagare nella questione della palestra, insomma, nelle conoscenze di Yara. C'è questo messaggio su Facebook abbastanza inquietante, c'è un'amica, una che si dice amica di Yara, e dice sappiamo tutti chi è. Oh, voglio concludere con chi? Quello che è diventato in Italia un po' per alcuni la star vera e propria, il ministro della difesa, ex ministro della difesa tedesco, che per una tesi copiata, zu Gutenberg, si è dimesso. Tesi copiata, si dimette il ministro star tedesco per il Fatto Quotidiano, come detto è il titolo di apertura, vabbè, ma perché sono ovvi i paragoni no? Con una Germania molto virtuosa dove si dimette un ministro perché ha copiato una tesi, anche per Repubblica copiò la tesi via il ministro star della Merkel, e invece in Italia sono tutti attaccati alla poltrona, insomma. Questo è il dato di fatto. A proposito di poltrone, parliamo di Parlamento nel nostro sondaggio, un Parlamento che per un terzo è produttivo e per 2/3 no. Questo ha certificato, secondo dei dati che ci verranno a spiegare, un'associazione che si chiama Open Polis. Siete stupiti da questo dato? Solo un terzo dei parlamentari produttivo. Votate il nostro sondaggio su radio24.it, ne parleremo poi alle 8.30, ora il giornale radio. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.22 minuti. Voglio salutare il sindaco di Lampedusa, Dino De Rubeis. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. C'è stato uno sbarco anche questa notte, la situazione com'è? 347 immigrati con 4 donne in un solo barcone. Si ricomincia. Si ricomincia. Com'è la situazione del centro di accoglienza? Ma il centro di accoglienza c'erano solo 200 immigrati, rimasti dai 6.300 che sono stati tutti trasferiti. Oggi ci sarà altro volo, si doveva azzerare nella mattinata di oggi il campo per ricominciare da zero nel famoso modello Lampedusa. L'arrivo dei 347 di fatto rinvia un pochettino quello che era il sistema modello Lampedusa. Ma voi temete, avete sentito, il ministro Maroni ha detto parte una missione per andare in Tunisia a controllare quello che succede, cercare di evitare gli sbarchi, vi tranquillizza? Sì, il ministro Maroni parlava di Tendopoli, di un campo lì nell'altra sponda, dando degli aiuti umanitari, vedremo quello che accadrà. Certo, può tranquillizzare nella consapevolezza comunque che queste popolazioni vogliono passare da Lampedusa per raggiungere l'Italia e poi meta finale Francia, Germania, Europa in certo. Generale. Sindaco, lei è indagato da qualche giorno, da ieri per la verità. Ma c'è di nuovo questa novità, istigazione, diciamo. Perché no, diciamolo, lei ha fatto un'ordinanza per vietare l'accattonaggio, il bivacco e la deiezione, cioè non voleva che pisciassero per strada, insomma, la gente. Precisamente sì, ho dettato delle regole, di queste ordinanze ce ne sono a decine emesse dai miei cari sindaci contro i zingari, i barboni, non scandalizzano al nord e in Italia, a Lampedusa, a dettare delle regole a qualcuno. Sembra che ci sia l'odio razziale. Istigazione all'odio razziale. Questa sì, è una parolaccia. Mi fa incavolare notevolmente. Però non è la prima volta, sindaco, no? Devo rispolverare questa vicenda, sì, dalla quale devo dire una cosa. Lei è stato assolto perché il fatto non sussiste, ma Repubblica le attribuì in un'intervista codesta frase, che voglio leggere per gli ascoltatori, detta secondo Repubblica da lei: non voglio essere razzista, ma la carne dei negri puzza anche quando è lavata. Precisamente sì, qualcuno ha affermato questa parolaccia in un contesto di un'intervista di 3 ore. La parola negro a Lampedusa non esiste, noi gli immigrati li chiamiamo turchi e ho dimostrato con tanta di quella documentazione al magistrato che era solo una fantasia e... Cioè che lei non l'aveva mai detta questa frase? Sì. E quindi è stato prosciolto 20 giorni fa per istigazione all'odio razziale, adesso è stato reindagato per istigazione all'odio razziale. E purtroppo, sa, la Procura della Repubblica di Agrigento, tramite ordinanza mandata dal questore di Agrigento, che di responsabilità ce n'ha tante su quello che è la gestione attualmente della vicenda immigrati, perché sappiamo tutti che c'è una legge vigente, che è la 125 del 24 luglio 2008, e poi la Bossifini, dove demanda ai questori a carattere provinciale la responsabilità di quello che accade in un territorio garantendo sicurezza e ordine pubblico. E vedremo se questo è stato fatto e poi eventualmente ci vedremo nelle aule giudiziarie. Ma devo dire, i giornali oggi sono per lo più dalla sua parte, cioè dire che è una mossa un po' azzardata quella di tutti i giornali nazionali. No? È vergognosa, vi dico, come è da pensare su quello che sta accadendo, che i 6.300 immigrati sono stati iscritti nel registro degli indagati come clandestinità o dovrebbero essere iscritti? No, sono iscritti. Siamo tutti consapevoli che oltre 5.000 immigrati sono partiti da Lampedusa verso ECIE in Italia senza un nome certo, con una carta di imbarco alquanto discutibile, perché dovevano partire da Lampedusa. Però la procura dice dobbiamo iscrivere nel registro degli indagati perché la legge vuole questo. Sì, la legge Bossifini lo prevede, intanto esatto. Li dobbiamo prima identificare, prima di scriverli, poi non so a chi hanno scritto, visto e considerato che le identificazioni e che non hanno portato buon fine, la polizia di Stato ha iniziato 4-5 giorni insomma, fa. Insomma, lei un po' ce l'ha con la procura e la procura ce l'ha un po' con lei, mi sembra di capire. In conclusione, ma questi 6.000 sono 6.300 per ora a Lampedusa, cioè che erano in tutto, dottore, 6.300, ne sono rimasti sì. i 200. L'impegno di Maroni nell'incontro fatto con il sindaco a Roma è stato mantenuto, perché mi aveva sì. detto in 10 giorni smaltiamo tutto, così è successo. Ma dove sono? Dove? Solo verso i centri CIE in Italia, compreso anche il CIE lì a Torino, che a Torino. Da un gruppo di tunisini hanno appiccato il fuoco. Questa è la vera verità, perché l'immigrato non vuole stare, amici miei, in Italia, vuole andare verso l'Europa. La maggior parte di questi tunisini che ho avuto modo di parlare all'interno del centro, quando all'interno del centro nessun carabiniere o poliziotto entrava per questioni di sicurezza e ordine pubblico, tutti hanno manifestato sotto le telecamere che volevano andare Francia e in Germania. Comunque lei, sindaco, nel salutarla e ringraziarla, mi tranquillizza, cioè quella frase lei sulla carne dei negri, non l'ha mai detto, niente di simile ha mai detto. Mai. Assolutamente no. No, io non sono razzista e mi incavolo esageratamente per chi me lo dice, perché abbiamo dimostrato e siamo d'esempio per tutti come popolazione di un'esagerata accoglienza verso tutti in base alla necessità del minuto. La ringrazio, sindaco, buona giornata. Grazie, sindaco di Lampedusa, Dino De Rubeis, per essere stato con noi, grazie. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi parliamo del sondaggio di produttività dei nostri parlamentari. Un'associazione, Open Police, ha fatto le pulci, presenze, assenze, leggi presentate, insomma tutte dei dati concreti che ci spiegheranno, per dire un terzo dei parlamentari sono produttivi, gli altri, è un dato che vi stupisce? Questo è il tema del nostro sondaggio. Votate su radio24.it oppure 800240024 tra poco. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:34 minuti per parlare del nostro sondaggio di produttività dei nostri parlamentari. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero. Perché un'associazione di analisti politici e matematici ha messo insieme dei numeri, dei dati e ha fatto delle classifiche di produttività dei nostri parlamentari. Il dato che vince maggiormente, secondo il giornale, è che un terzo dei parlamentari è, diciamo, abbastanza produttivo e gli altri due terzi non tanto. Qualcuno contesta questi dati, qualcuno si inalbera, qualcuno dice sono sbagliati, qualcuno dice non tengono conto di tante cose. Sta di fatto che ci sono delle classifiche, ora le vedremo, e soprattutto la domanda che facciamo è: un terzo dei parlamentari produttivi, gli altri no, vi stupisce? Io, come al solito quando si parla di questi argomenti, il 94% del nostro sondaggio per il momento dice no, non ci stupiamo. Voglio salutare intanto Vittorio Alvino, che è il presidente di Open Police. Buongiorno Alvino. Buongiorno. È colui che ha fatto Open Police, ha fatto questa classifica. Intanto cosa vuol dire produttività? Cioè che dati avete messo insieme? Allora, i dati sono quelli ufficiali, quelli forniti dalla Camera del Senato, e riguardano tutta l'attività parlamentare dall'inizio della legislatura, cioè dire tutti i disegni di legge presentati, tutte le interrogazioni, le mozioni, tutta l'attività sia legislativa che non legislativa di Camera e di Senato. Noi monitoriamo quotidianamente questa attività e attribuiamo poi ai singoli parlamentari gli atti che hanno firmato e che quindi hanno presentato direttamente, o che nel caso dei disegni di legge hanno relazionato, di cui sono relatore. Perfetto, quindi non so, un disegno di legge vale tot punti presentato, un disegno di legge firmato, una legge che viene approvata e proposta da un parlamentare varrà di più, no? Immagino. Esattamente, esattamente. Cioè un disegno di legge che è presentato vale poco più di 0,08, okay. Diciamo nulla. Nel momento in cui procede nel suo iter, va avanti verso l'approvazione, man mano che scala i passaggi acquisisce peso, acquisisce valore. Quindi diciamo, l'abbiamo chiamato indice di produttività perché calcola non solo la quantità degli atti, ma anche il loro esito. Il loro esito. Diciamo, calcola l'efficacia dell'attività. E poi anche le presenze, le assenze, le missioni, perché anche quelle, insomma, essere presenti e non essere presenti può cambiare. Allora io ho qua le classifiche, tra l'altro abbiamo due parlamentari parlamentari che tra poco saluterò. Alla Camera il migliore per indice di produttività secondo questa classifica è l'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori. Buongiorno Borghesi. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Adesso non faccia quello che si fregia un po' di questo titolo, no, anche se sarà orgoglioso. Sono naturalmente, sì, è una legittima soddisfazione, sì, credo, sì. Però io ho detto subito che la devo condividere anche con lo staff e con le persone che mi supportano nell'attività di parlamentare. Lei ha indice di produttività è 806.71 davanti a Pierpaolo Baretta del PD, Donato Bruno del PDL, Maglio Contento del PDL. All'ultimo posto devo dire Nicolò Ghedini, credo che sia però indaffarato soprattutto a fare altro, mentre al Senato io voglio dire il migliore è Giampiero D'Alia, indice di produttività 1115 davanti a Carlo e dell'UDC, davanti a Carlo Vizzini del PDL e Lucio Malan del PDL. Voglio salutare anche il senatore Gianni Vernetti dell'Alleanza per l'Italia. Buongiorno Vernetti. Buongiorno. Tra l'altro si trova in missione, è stato anche sottosegretario agli esteri. Lei, come indice di produttività, siamo sono ad Atene. Ad Atene. Ok, scarsino di produttività, 53,2, cioè Borghesi è a 800, lei è posti veramente bassi. Assolutamente, io sono mediamente spesso, la mia media di presenza in Parlamento, la seguo la classifica Open Policy, mi sembra un utile monitoraggio, ne ho un po' meno della metà di presenza. Al 38%. Tenga conto che condivido con i miei colleghi della Commissione Affari Esteri, noi abbiamo alcuni impegni. Guardi, in questi giorni stiamo qui discutendo ad Atene, io tanto ritornerò in Parlamento oggi nel pomeriggio per partecipare al voto di fiducia, questa sera alle 19, sì. Discutiamo nel Mediterraneo, cioè, diciamo, ci sono una serie di impegni internazionali per chi fa la Commissione Affari Esteri che naturalmente lo portano a stare mediamente un po' distante dal Parlamento, io lo dico però molto coerente col mio mandato istituzionale. Un po' di missione all'estero. Onorevole Borghesi invece dell'Italia dei Valori, tanto Berlusconi ha detto che 50-60 lavorano i parlamentari, tutti gli altri fanno pettegolezzi lì in Parlamento. Dovrei dire un'altra cosa, che il governo ci dà poco da lavorare, quindi è possibile che in questa situazione molti lavorino anche poco, anche per questo motivo. Le commissioni, tranne alcune che sono più direttamente coinvolte in qualunque tipo di progetto di legge come affari costituzionali e bilancio, le altre oggettivamente sono costrette a lavorare poco perché c'è poca materia. Ma questa cosa io l'ho letta varie volte ed effettivamente è vero, tanti decreti legge vengono approvati dal governo, poi passano al Parlamento per la conversione in legge, ma voglio dire, mi hanno insegnato che in Parlamento si presentano, si fanno le proposte di legge, cioè perché poco da lavorare, voglio dire, il Parlamento è il luogo dove si fanno. Lei ha ragione, ma il problema è che la produttività viene misurata sull'esito. L'esito non c'è, perché quando anche la Commissione, in quei casi in cui è riuscita a discutere dei progetti di legge parlamentari, e poi si è trovata di fronte ad un governo che ha detto non c'è un centesimo e ha bloccato tutto. Quindi anche questo è un elemento sul quale riflettere, ma è un elemento da prendere in considerazione. Allora, intanto detto che VSMS qualcuno ci dice i migliori non hanno fatto niente più del loro dovere, avrebbe detto mia nonna, non so se condivide questa impostazione Vittorio Alvino. No, io vorrei chiedere a Vittorio Alvino una cosa, il presidente di Open Policy, perché Alvino, molti hanno contestato i dati. Intanto Vernetti per esempio dice ci sono le missioni, lui è stato sottosegretario agli esteri, si occupa di esteri spesso e all'estero. D'Alema ieri ha scritto su Repubblica dicendo, si è arrabbiato, si è adombrato dicendo io sono presidente del COPASIR e questo strumento di controllo non viene monitorato in questi dati. Insomma, Alvino. Sì, allora dunque, rispetto all'osservazione di Vernetti, diciamo, ovvio se l'attività parlamentare, l'attività istituzionale porta il rappresentante a svolgere funzioni all'estero, evidentemente, come dire, c'era meno risorse e meno tempo da dedicare all'attività parlamentare qui in Italia. Diciamo che però il tasso di assenza che noi pubblichiamo tiene conto delle missioni, cioè quelle che noi chiamiamo assenze sono assenze vere. Diciamo non giustificate al netto delle missioni, questo per precisare. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole D'Alema, diciamo è abbastanza impropria, nel senso che l'onorevole D'Alema presiede il COPASIR da gennaio del 2010. Quindi noi sappiamo che la legislatura è stata avviata ad aprile del 2008 e quindi diciamo che su complessivi quasi 3 anni di legislatura soltanto da un anno presiede il COPASIR. D'Alema forse si è arrabbiato perché su 630 deputati è in classifica al numero 608 come produttività, questo, scarsino. Questo l'onorevole D'Alema appunto, che poi tra l'altro è anche membro della Commissione Esteri della Camera, non ha presentato nessun disegno di legge. Ah, okay. Ma ultimissimo, male, invece, mi spieghi questo, ultimissimo risulta Fini, cioè il Presidente della Camera con un indice 1,70, ma credo che sia dovuto al suo ruolo oppure no? Sì, no, cioè, assolutamente, quello nelle nostre classifiche, quelle pubblicate in Camere Aperte, non abbiamo tolto i presidenti di Camera e Senato, Okay. che evidentemente non, insomma, per il loro ruolo non svolgono, non possono svolgere attività tra virgolette produttiva e ne partecipano al voto. Alvino, le chiedo, c'è solo una, da cosa siete mossi? Solo da una questione di trasparenza, una questione di totale antipolitica anche, da un po' di antipolitica. Diciamo che siamo mossi dalla politica, non dall'antipolitica, sì. Cioè dal tentativo di offrire ai cittadini innanzitutto strumenti per non perdere le tracce dei propri eletti dopo le elezioni e quindi mantenere un contatto con la politica, avere degli strumenti che semplifichino la lettura della politica e di quello che accade in Parlamento, per avere un rapporto con i propri rappresentanti, quindi perché la politica mantenga un canale aperto tra cittadini e loro rappresentanti. Sulla trasparenza, Gianni Vernetti, secondo lei c'è un po' di antipolitica in questi discorsi che si fanno sui giornali oggi? No, guardi, assolutamente no, perché io che frequento molto l'America, sì, per lavoro, questa attività di monitoraggio è costantissima, cioè è persino più assidua, con una presenza fortissima su quasi tutti i siti di tutti i parlamentari, richiamano attività di monitoraggio come quella che fa un po' io lo ritengo assolutamente non solo legittimo ma assolutamente normale. Se mi permette, sì, però, diciamo, ma il suo cellulare va e viene, si avvicini al microfono, Vernetti, perché forse un elemento essenzialmente quantitativo. Per esempio, io non sono convinto che l'attività prima e unica del parlamentare sia la presentazione quantitativa di decine o centinaia di progetti di legge. Io per esempio nell'attività che svolgo in queste settimane nel Mediterraneo di incontrare i nuovi leader di queste rivolte che stanno cambiando questo mondo, noi avremo una futura classe dirigente che emergerà dopo la caduta di queste dittature. Questi incontri io non penso vengono penso che sia interesse del paese costruire un sistema relazionale con le nuove leadership che vengono delle rivoluzioni democratiche di Egitto, Libia e Tunisia. Sì, effettivamente questo è un elemento interessante, perché non vengono ovviamente computate questi incontri che lei fa, però c'è da dire che la presentazione di leggi, ci ha spiegato Alvino, è data 0.08%, 0.08 punti, 0,08 mi sembra di aver capito, dunque pochissimo, cioè presentare un progetto di legge è pochissimo, perché uno può presentarlo e poi rimane lì a giacere senza che nessuno lo prenda in mano. Devo dare le informazioni sul traffico, poi riparto anche dall'onorevole Borghesi, qualche nostro ascoltatore, per capire insomma di produttività dei nostri parlamentari. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora discutiamo della produttività dei nostri parlamentari con i dati che Open Policy ha incrociato, presenze, assenze, leggi presentate, iter di queste leggi, proposte di legge. Sentiamo Stefano da Brescia, che ne pensa? Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro. Dica. Allora, questi dati sono una dimostrazione lampante che potremmo benissimo ridurre i nostri parlamentari al 50%. E chi lo sa, perché se lavorano sempre un terzo di quel 50%, invece... E qualsiasi azienda che ha 2/3 di operai che non lavorano ne licenzierebbe almeno la metà. Lei dice, insomma, ma il tema della riduzione dei parlamentari, beh, la introduce, insomma, quante volte l'abbiamo sentito parlare. Comunque Stefano, grazie. Cesare, dalla provincia di Latina, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Io invece sono abbastanza critico su questi, bene, su questi dati. Dica. Su questi dati innanzitutto il Parlamento non è una fabbrica, quindi Già il fatto stesso che Fini si trova all'ultimo posto, insomma, no, però guardi, Fini è all'ultimo posto perché essendo il presidente della Camera, cioè non mica presenta le leggi, mica, cioè, anche Schifani è l'ultimo posto del Senato, cioè i presidenti lasciamoli stare, fanno hanno un altro compito, non è quello certo di presentare le leggi, non c'entrano questioni politiche qui, siamo sui numeri. Sì, e poi vorrei capire un attimo questo Open Policy a che titolo parla, praticamente perché ci dovrebbero essere degli organismi statali, degli organismi da controllare e parlare, non ogni volta ci esce qualche associazione, qualche cosa che parla. Vabbè, adesso tra poco glielo chiederemo, chi sono Open Policy, tra poco glielo chiederemo, prima vorrei tornare all'onorevole Borghesi, senta, la riduzione dei parlamentari è una buona cosa, onorevole? Assolutamente, noi siamo d'accordo. Ecco, sentivo prima i ragionamenti anche del collega Vernetti, per carità, le cose, i dati si possono sempre, sono sempre opinabili, si possono sempre migliorare, ma voglio dire, ci sono atti che impegnano davvero la persona che li presenta, a parte le leggi, l'attività ispettiva, non so, io ho fatto circa 180 interrogazioni e le garantisco che ogni interrogazione va poi letta, vista e studiata una per una, ho fatto circa 1700 emendamenti alle varie leggi che sono state discusse, anche gli emendamenti, non è che, sì, che uno li presenta. Ci sono quindi atti, no, ma infatti io una cosa che non ho capito, e qui vengo alla domanda del nostro ascoltatore, giro a Vittorio Alvino, presidente di Open Policy, è questo, cioè qua sono numeri, poi opinabili, si può discutere se siano questi dati da prendere, cioè le interrogazioni, i progetti di legge, o se non, per esempio, come dice Vernetti, il fatto che io sono qui a incontrare ad Atene dei leader politici, anche questo è importante nel ruolo politico, però c'è sempre questa idea in Italia per cui c'è questa retrocultura del sospetto, allora Open Policy, chi siete? A quale complotto, di quale complotto fate parte voi, Open Policy, ce lo dica? Sì. È un complotto di cittadini, cioè è un progetto che è nato in rete con l'idea di che l'informatica e la telematica e quindi la rete e il web potessero aiutare a fare informazione imparziale e trasparenza e quindi favorire la partecipazione. Però ci chiede l'ascoltatore a che titolo parlate, detto che nelle classifiche c'è al primo posto uno dell'Italia dei Valori, al secondo posto e al terzo posto uno del PDL, per dire, al quarto posto uno del PD, cioè non è che siete bipartisan nel senso nel verificare dei numeri poi delle... Dunque non parliamo noi, sì, parlano i dati. Questa è la nostra missione, cioè il nostro ruolo è quello di utilizzare dati di fonte ufficiale, ripeto, tratti dalla Camera e dal Senato, e utilizzare dei parametri che rendiamo trasparenti, formule che rendiamo trasparenti, e applicando queste formule, questi criteri ai dati ufficiali che tutti possono verificare, ecco che forniamo degli strumenti di interpretazione per leggere la politica, per valutarla da parte anche dei non addetti. Però mi scusi Alvino, l'obiezione di Vernetti non è un'obiezione sbagliata, cioè dire io sono qui a incontrare dei leader politici del futuro, e questo mi viene magari segnato, cioè come? Non mi dà punti, voglio dire, ma sto facendo politica, sto facendo il politico. Giusto. Appunto, noi utilizziamo i dati e utilizziamo tutti i dati disponibili. Le nostre analisi hanno dei limiti, stanno nel fatto che non tutti i dati sull'attività parlamentare sono disponibili, e questa è una parte importante della nostra battaglia, quella di chiedere alle istituzioni in genere, in questo caso al Senato e alla Camera, di rendere disponibili più dati, per esempio a parte l'attività di incontri nelle missioni internazionali, che sarebbe comunque abbastanza difficile da valutare e monitorare. Chiediamo una cosa ancora più semplice, che è l'attività delle commissioni parlamentari, dove si svolge la parte più importante, il lavoro politico dei parlamentari, sia trasparente. Ecco, ad oggi noi non sappiamo chi presiede, chi partecipa alle riunioni delle commissioni, non sappiamo come votano, e sappiamo abbastanza poco di quello che si discute. E infatti i politici spesso dicono si va a controllare quante sono le votazioni, quelle ore di lavoro dell'aula, il Fatto Quotidiano lo fa tutti i giorni, e in questi due mesi si è lavorato in media all'aula, in aula, alla Camera 3 ore e mezza al giorno, al Senato un'ora e sette. Volevo fare anche un'osservazione rispetto a quanto si diceva prima. Giustamente l'ascoltatore diceva che il Parlamento non è una fabbrica e non può essere quello il criterio. Diceva anche l'onorevole Borghesi che il lavoro dei parlamentari è condizionato dal fatto che il governo presenta poco e comunque c'è poca copertura. Noi riteniamo invece che se poi sono soltanto un terzo a lavorare, anche perché c'è un'eccessiva dipendenza del Parlamento dall'iniziativa politica del governo e come dire si potrebbero, ci sono proposte, idee di molte riforme che non hanno neanche bisogno di investimento, di copertura economica, e potrebbero invece innescare dei processi di trasformazione, allora, di innovazione molto importante. Ma interessante. Allora io, siccome devo concludere, ho 20 secondi, Vernetti, però mi aumenti un po' le presenze, che al 38%. Sì, avrebbe un approccio un pochino più qualitativo. Comunque la mia attività parlamentare si può seguire su Facebook, su Twitter e sul mio blog. Quotidianamente e con grande trasparenza. E tra l'altro c'è un altro elemento che, se mi permette, diciamo anche il rapporto tra il parlamentare e i propri elettori. Cioè, diciamo, uno deve anche rendere conto. Qui c'è tutta un'attività sul territorio, c'è l'attività delle commissioni, c'è l'attività negli organismi internazionali che non viene molto. Ma guardi, quindi, sul controllo del territorio, in un Parlamento di nominati, insomma, si potrebbe anche discutere su questo. In ogni caso, Alvino, i rapporti chi non ne ha comunque. Questo è vero, questo rientra nel volontariato. Se uno vuole tiene i rapporti col proprio collegio, se uno non vuole no, tanto è un Parlamento di nominati finché c'è questa legge elettorale. Alvino, il sito internet di Open Polis, così la classifica ve la andate a vedere se ve la volete vedere, qual è? Il sito internet è indice.openpolis.it, dove le classifiche sono aggiornate quotidianamente. Perfetto. Il sito dell'associazione è associazione.openpolis.it, sono aperte le iscrizioni e chiediamo a tutti i cittadini. Anche le critiche, insomma, modo da dire, lavoro. Migliorare. Grazie a Vittorio Alvino, presidente di Open Polis, a Gianni Vernetti, Alleanza per l'Italia, e all'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori per essere stati con noi. Continuate a votare anche su Facebook, anche noi ci siamo, 24 mattino, è molto semplice. E allora, con Elisabetta Fusconi e Alessandro Longoni in redazione, Peter Bescapè, l'Alpino in regia, vi diamo appuntamento dando la linea a Oscar Giannino a domattina 7:20.